A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Ci sono terre in cui anche una semplice stretta di mano può essere il canale di un contagio che nell'ombra si allarga. Ci sono terre in cui non solo il sangue, ma il silenzio nutre il virus dei clan che a volte, come la più insidiosa delle malattie infettive, si trasmette anche solo con una porta lasciata aperta al contatto. E dalla punta dello Stivale è successo così che il contagio dell'Ndrangheta sia arrivato a centinaia di chilometri di distanza, macchiando del suo virus anche grandi realtà imprenditoriali, uffici delle forze dell'ordine, studi di avvocati o magistrati, vite di informatori dei servizi segreti, quando non dei politici. E a volte, Contro il contagio, titolo del libro di Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino, il primo neo procuratore di Roma dopo 4 anni alla DDA di Reggio Calabria, il secondo procuratore aggiunto Regino, a volte contro il contagio servono anche piccoli gesti concreti, come una porta chiusa o una stretta di mano mancata. Quando ho letto il titolo del saggio Per i caratteri della terza, curato da Gaetano Savatteri, Il contagio, ho pensato alla pelle e al virus che l'Ndrangheta, dall'organo più esposto di ciascuno di noi, è riuscita a diffondere e inculcare fin nell'interno dell'economia, nelle relazioni sociali, nella politica, insomma nel cuore di uno Stato. E da qui parte questa puntata di A ciascuno il suo, nel contagio dell'Ndrangheta, prima con Michele Prestipino, poi col procuratore Giuseppe Pignatone. Quando noi parliamo di contagio, intendiamo sottolineare un pericolo, cioè il pericolo che pezzi della società, pezzi di mercato siano esposti alla presenza e all'agire mafioso dell'Ndrangheta, luoghi che sono per essa nuovi e che quindi rappresentano territori di conquista. Territori di conquista nuovi, ma che con gli anni sono stati così tanto consolidati da avere oggi anche, e questo è un dato diciamo storico e giudiziario particolarmente importante, anche un pentito di 'Ndrangheta al nord, nato al nord. Sì, perché questo è il frutto appunto della stabilizzazione dell'organizzazione mafiosa. L'Ndrangheta si espande secondo un modello di colonizzazione, secondo un modello di clonazione delle proprie cellule criminali e secondo un modello che esporta innanzitutto i soldi da investire, poi esporta la struttura organizzativa mafiosa e con essa esporta anche il sistema di controllo sociale, di controllo del territorio e arriva anche il sistema di relazioni dell'organizzazione mafiosa. Perché è importante, come voi raccontate nel vostro libro Il contagio, la storia e il caso di Antonino Belnome? È importante perché costituisce la riprova del fatto che dove l'Ndrangheta si stabilizza produce esattamente lo stesso modello sociale. Un dato che è emerso con tanta forza, come l'Ndrangheta sia e si comporti e pensi e elabori strategie come un'organizzazione mafiosa di tipo unitario, una l'Ndrangheta, ecco, questo dato molti anni fa era stato indicato da un collaboratore di giustizia, uno dei primi collaboratori di giustizia calabrese, che in uno dei suoi interrogatori aveva esattamente detto: guardate che l'Ndrangheta è un'organizzazione che elabora strategie unitarie. Solo chi ha fatto parte dell'organizzazione mafiosa è in grado di rivelare le più segrete cose di quell'organizzazione. Se si volesse concentrare l'aspetto su uno dei settori più importanti della presenza dell'Ndrangheta, come quello economico, forse verrebbe da pensare che questo contagio, che concretamente si può tradurre nel pagamento di un pizzo, è quanto ad esempio esisteva già nella Sicilia di Libero Grassi, cioè 20 anni fa. Questo potere si è accumulato anche per la capacità dell'Ndrangheta di infiltrare il tessuto economico e quindi di diventare una sorta di soggetto regolatore del mercato. un soggetto che media sulla scena economica calabrese e che quindi alla fine è in grado di determinare nelle logiche mafiose e secondo parametri e finalità mafiose chi lavora e chi non lavora. Se non hai lavoro non hai potere, riassumono infatti in un'intercettazione i familiari di un detenuto. Questo vuol dire ad esempio che anche per lavare le tute dei dipendenti di una società ci si rivolge ad una precisa lavanderia. Il meccanismo di controllo sociale è un meccanismo pervasivo, non soltanto l'impresa che lavora in Calabria è assoggettata, così come accadeva in Sicilia, al pagamento della tangente, di quello che noi chiamiamo il pizzo, ma ovviamente deve assumere la manodopera che le cosche indicano, deve servirsi dai fornitori che le cosche presentano. Questo... E i soldi guadagnati invece poi dove vengono diretti? Innanzitutto c'è tutto il settore immobiliare dove la mafia ha sempre investito, poi ci sono le imprese dove investe, tipo il Movimento Terra nell'edilizia, ma poi c'è anche la grande distribuzione commerciale, ci sono i rifiuti, ci sono infiltrazioni anche nel settore delle energie alternative. Nel vostro libro citate anche il grande affare che sta preoccupando tutti per il rischio infiltrazioni, che è quello dell'Expo. Ci sono state anche già nelle intercettazioni di più inchieste, diciamo vostre e milanesi, dei rimbalzi, diciamo, nelle parole dei mafiosi sul capitolo Expo? Queste sono indagini, quindi non sono elementi investigativi. Non... Tuttora aperti, perché qualche traccia ne era già anche nell'operazione Il Crimine. Ma veniamo ad un altro aspetto. Una serie di inchieste in questi anni hanno portato ad indagare o anche all'arresto di avvocati, funzionari di polizia, magistrati indagati e poi arrestati, un informatore dei servizi segreti, ambienti diversi che entrano nel marchingegno. Cosa porta questa borghesia mafiosa a rischiare così tanto? Convenienza. Tutti i soggetti che non appartengono alla mafia e che stringono patti con la mafia lo fanno per ragioni di convenienza, perché attraverso questo patto realizzano dei guadagni, affermano degli interessi che altrimenti non potrebbero realizzare né affermare. E questo vale anche per le altre categorie come avvocati, magistrati, informatori dei servizi segreti? C'è sempre nel rapporto con la mafia un calcolo di convenienza. Il pubblico ufficiale che tradisce il giuramento di fedeltà allo Stato e che passa informazioni riservate alla mafia lo fa a volte per svariati motivi. Questo termine convenienza può significare non solo il pagamento del prezzo, ma anche la facilitazione in una carriera, l'inserimento in un determinato contesto, vantaggi che sono, come dire, apprezzabili poi in via soltanto indiretta in termini economici, ma alla base c'è sempre questo calcolo di convenienza. Una convenienza che appunto si declina in tutti i vari settori, compreso quello politico. Voi riportate nel vostro libro un'intercettazione in cui l'Andrangheta un po' si lamenta e commenta il fatto che un politico in piazza avesse avuto l'ardire di dire che non voleva i voti dell'Andrangheta. La forza dell'Andrangheta è nel concludere affari, nel concludere operazioni lucrose. Intanto lo possono fare in quanto hanno rapporti, relazioni, forza, significano, presuppongono che ci sia un dialogo, che ci sia l'interlocuzione. Non si può concludere un patto collusivo con un imprenditore, con un professionista, non si può stringere un patto con un politico se prima non c'è un canale comunicativo, non c'è una possibilità di interlocuzione. Se improvvisamente questi pezzi di società chiudono le porte in faccia alla mafia, la mafia teme tutto questo. La politica che può contagiarsi di 'Ndrangheta anche a chilometri di distanza, come una parte dell'inchiesta che sta coinvolgendo la Lega Nord sta mostrando. Una politica che a volte, come alcune inchieste calabresi hanno confermato, non esita ad omaggiare direttamente a casa il capoclan. A ciascuno il suo. A volte la storia può cambiare anche con una stretta di mano negata. per fermare un contagio che invece anni di silenzi e di intimidazioni, anni di consolidati equilibri e di cure evidentemente non adeguatamente forti avevano nutrito. È successo così che la 'ndrangheta sia arrivata ad un giro di affari da 44 miliardi di euro, come calcola l'Eurispes, ad un esercito di affiliati il più alto tra le mafie in proporzione alla popolazione della Calabria e soprattutto ad una capacità di infiltrarsi e confondersi che gli ha permesso di entrare anche negli stessi uffici giudiziari. Dietro le porte blindate dei loro uffici, alla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino, entrambi siciliani, hanno per 4 anni lavorato invece per fermare il contagio, arrivando anche a far arrestare, insieme ai colleghi milanesi, altri magistrati o a mettere sotto indagine il numero 2 della Procura Nazionale Antimafia. Ma contro il contagio, titolo del loro libro per i caratteri della terza, ciascuno può e deve fare la sua parte, a cominciare forse da non stringere la mano a tutti, come sottolinea Giuseppe Pignatone, neo procuratore di Roma, dopo aver diretto appunto la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Una cosa che tutti quei semplici cittadini possono e possiamo fare è prendere le distanze da persone che nell'ambiente sono conosciute come simpatizzanti. 4 anni di indagini che hanno visto gran quantità di arresti, dall'ala più militare a quella della borghesia mafiosa, a quella della zona grigia nel senso più esteso, 4 anni di indagini che hanno fatto registrare degli scricchiolii in un sistema di potere della città. In sostanza avete fatto capire che non potevano esistere zone franche e garanzie di impunità. Che significa tutto questo? Significa che innanzitutto vi siete trovati un territorio in cui invece si pensava che potessero esistere delle garanzie di impunità in certi settori? Da un lato non ci sono nella società né fasce innocenti per definizione, sicure dal contagio mafioso, così come non ci sono categorie necessariamente colpevoli. Bisogna fare le indagini col massimo scrupolo. Noi crediamo, speriamo di avere dato anche degli elementi che, al di là della responsabilità personale dei singoli imputati, hanno consentito all'opinione pubblica del Paese e anche contemporaneamente a chi ha la responsabilità politica, abbiano dato elementi estremamente probanti su quello che è il pericolo 'ndranghetista nel nord Italia e quindi sulle cose che si devono fare per fronteggiare questo pericolo. Un pericolo che si nutre molto spesso di informazioni riservate, informazioni che arrivano anche a volte da talpe interne al mondo delle istituzioni. Di questo tipo di realtà è fatta l'antimafia in generale in Italia. Lei, come il procuratore Prestipino, provenite da Palermo, dove avevate voi stessi istruito anche i processi per le talpe nella cattura di tanti celebri. Noi sia in Sicilia per la cattura di Provenzano, così pure in Calabria, abbiamo dovuto fare, come abbiamo detto, delle indagini a tutela delle indagini. È evidente che se le informazioni sulle indagini più delicate arrivano agli esponenti delle cosche mafiose, le indagini corrono seri rischi. Noi citiamo spesso un libro di Franchetti, l'indagine in Sicilia del 1876, cioè di 150 anni fa, quasi, in cui si denunziava anche allora l'infiltrazione della mafia siciliana dell'epoca nelle forze di polizia dell'epoca. La forza delle mafie è proprio la loro capacità di infiltrarsi in tutte le categorie, comprese le forze di polizia o compresa la magistratura. A volte bisogna combattere questi fenomeni con severità. Questo è avvenuto non solo con i processi, ma diamo atto ai responsabili locali e nazionali delle forze di polizia di avere contrastato questo pericolo con azioni disciplinari, con trasferimenti, secondo la gravità delle condotte, che è arrivata in alcuni casi fino all'arresto di persone ritenute colpevoli di gravi reati. Che cosa chiede in cambio un uomo, un informatore dell'intelligence come Zumbo, che appunto aveva dato delle soffiate sulle inchieste in corso? Cosa chiede in cambio un uomo di questo tipo per esporsi e quindi dare delle informazioni così riservate? In generale, per la ricompensa può essere banalmente del denaro, può essere un favore in un piccolo paese in cui la cosca 'ndranghetista controlla aspetti fondamentali della vita sociale, c'è in genere un calcolo di convenienza che poi, se, man mano che si sale nel ruolo, per così dire, dell'informatore, la ricompensa può essere un favore alle elezioni, un aiuto nella carriera e così via. Nel caso di Zumbo, fermo restando che sono i risultati delle indagini, che il processo, il dibattimento è in corso, quello che noi abbiamo ritenuto l'esito delle indagini è che Zumbo direttamente non chiedeva niente. Ci sono delle intercettazioni degli stessi mafiosi che dicono no, non ha voluto neanche l'omaggio di una bottiglia di liquore o di dolci per Natale. In realtà, secondo noi, questo è estremamente preoccupante. Secondo noi, chi ha mandato Zumba a rivelare notizie sulle indagini, il boss mafioso di San Luca, intendeva poi in realtà instaurare con questo boss mafioso un accordo a lunga durata, con uno scambio reciproco di favori di alto livello, evidentemente. Beh, staremo a vedere come si svilupperà il processo. Non posso negare che, leggendo il vostro libro, mi ha colpito il nome di Marco Mancini, ex numero 2 del Sismi, coinvolto a Milano in una serie di altre vicende giudiziarie, dalle quali è stato assolto e non è indagato a Reggio Calabria. È un nome che viene fatto negli atti processuali, che sono pubblici. Ripeto, aspettiamo l'esito del processo. I vostri anni di lavoro in Calabria hanno fatto emergere, come raccontate anche nel libro, una differenza importante anche nei rapporti tra gli uomini politici locali e i referenti della malavita locale, sulle differenze tra Sicilia e Calabria. Noi riferiamo o facciamo dei ragionamenti su dati di indagine, dati processuali. La nostra sensazione è che in Sicilia il contatto, quando c'è, fra l'uomo politico e i mafiosi è mediato da altre figure che possono essere molto spesso imprenditori, professionisti. È difficile registrare un rapporto diretto. In Calabria, dove la realtà è diversa perché si tratta spesso di piccoli centri, è diversa per la scarsa attenzione dell'opinione pubblica nazionale al fenomeno dranghettista, è diverso per una storia particolare della regione rispetto ad altre. Questo contatto, le indagini lo hanno dimostrato in più occasioni, spesso è più diretto, senza intermediari. L'uomo politico, ci sono intercettazioni precise su questi processi, va a casa del boss mafioso a chiedere i voti e a promettere qualcos'altro in cambio. Annotiamo poi che in ogni caso, sia in Calabria che in Sicilia, il mondo della politica e il mondo della mafia rimangono due mondi diversi. Sia i grandi mafiosi siciliani, Provenzano, Massina Denaro, si lamentano dei politici che non mantengono le promesse, di cui non ci si può fidare, e lo stesso dice nelle intercettazioni registrate a casa sua il boss mafioso di San Luca. Sono mondi diversi, fra cui il dialogo, anche quando c'è, è spesso difficile. Nel marchingegno della politica, per dirla col titolo di uno dei capitoli del libro, seguendo i soldi ci possono essere operazioni finanziarie che partano dalla Calabria e che possono coinvolgere anche un partito ben radicato al nord come la Lega. Rientra anche questo nel marchingegno della politica? Guardi, io di queste indagini non intendo parlare minimamente. Noi nel libro diciamo che le indagini che sono state fatte hanno dimostrato la presenza dell''ndrangheta sia come investimenti, sia proprio come presenza dell'associazione mafiosa, anche in alcune zone del nord Italia, in particolare della Lombardia e del Piemonte. Anche qui ci sono collegamenti, a volte con professionisti, a volte con politici locali, spesso con imprenditori e così via. Un'esperienza che è stata anche segnata dalle minacce pesanti che avete subito, un'esperienza che vi ha visto arrivare a situazioni anche, immagino, difficili per un magistrato, come quella di arrestare altri magistrati o di mettere sotto accusa, indagare altri autorevoli magistrati, ma anche è stata un'esperienza anche di attacchi a un certo punto. Fanno parte della normalità di chi fa indagini sulla mafia. È chiaro che nel momento in cui si toccano determinati interessi, sia criminali in senso stretto, sia di quella parte della società che con le cosche mafiose intreccia rapporti di convenienza, di interesse reciproco, naturalmente c'è da mettere nel conto attacchi, ma questo è avvenuto in Sicilia, avvenne in Calabria, avverrà sicuramente anche in Campania e potrà anche avvenire altrove. A ciascuno il suo, termina qui. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate dal sito radio24.it nella sezione podcast. Ci trovate anche direttamente su iTunes e poi ancora sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra vecchia trasmissione, e sul blog Storiacce. Per seguirci su Twitter l'account è Raff Calandra. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.